Natalino. Aspetta che c'ho un telefono, dai. Antone, chiudo che saluto Natalino e poi mangio. Ok, dai, stammi bene. Scusa, aspetta. Ebbene, Natalinus. Natalinus, non credevo nemmeno di sentirti. Io non sto più accendendo perché sto andando da un medico all'altro. Ero seria a fare... Ho fatto due visite degli occhi, la visita neurologica, poi dovrò ritornare a fare la risonanza magnetica, poi mi dovrò operare l'occhio, poi mi dovrò fare la biopsia a quell'angioma che si è un po' infiammato, poi dovrò rimuoverlo, quindi anche quell'operazione. Natali, sono... Manco voglia di entrare, ne ho, sono un po' incasinato per la salute, dai. Prima la salute e dopo tutto l'altro. Io qua mi hanno incasinato perché mi hanno detto non c'è marino ed è un'amica di mia moglie. Cazzo, li ammazzo. Oh, e tu non gli hai detto, e perché cazzo l'avete attaccata alla mia antenna del baracchino, l'antenna? Non potevate distanziare? Quando me lo dice, salvo 5 euro. Secondo come va, si è stato per l'antenna più 3. Quando l'ho detto 5 euro. Oh, e beh, qua io francamente non ho più acceso da giorni e giorni. Come la situazione nera, scommetto. Ti avevo mandato un messaggio anche a WhatsApp, Natalino come stai o roba del genere, ma forse ce l'hai spento, non l'ha ricevuto nemmeno. E quindi vabbè, ero ieri da lunedì a mercoledì, sono tornato ieri sera. E purtroppo bisogna viaggiare, una rottura di palle, ho dovuto scomodare mia zia perché, sai, non ci vedo molto bene, quindi cartello non li vedo bene, poi il navigatore dello smartphone, sì, funziona, ma non è che lo puoi prendere, lo devi pigliare con le pinze, perché c'è volte ti dice strade che non esistono, e quindi mi sta accompagnando mia zia a fare queste cose qua. Adesso c'è Pasqua a Pasquetta, poi dovrò fare la risonanza magnetica alla testa per via degli occhi e vedere se si può operare, se si può risolvere, che rottura di balle, guarda. Ah, rinnovata ella. E beh, comunque qua baracchino zero, no? Claudio non sta più entrando, immagino. Ah, non sta entrando più, io la credo di cercare la mattina. Non vale, non sono appena, non faccio fare tanto casino perché sta la stessa qui. Sì, lo so, io ero buriato anche per queste storie. Sia questo appunto, questo neo rosso angioma sulla testa che si era infiammato e bisognerà rimuoverlo, fare anche, no, anche l'esame, come si dice, l'esame istologico, la biopsia, no, e sapere anche di se è benigno oppure, capito Natali? C'è anche quella preoccupazione, quindi figurati quando voglia di parlare al baracchino. Oggi è stata così, ho provato a accendere, ho sentito Torre Squalo chiamando sul 23 ma non c'era nessuno, e in PMR lo stesso, non c'era nessuno, può darci che siamo entrati adesso, boh, vediamo, esce a vedere. No, sento silenzio. E purtroppo baracchini non si vendono perché ce l'ho da sul mercatino di Roger K, ma non proprio zero totale. Giusto lo Iaesio avevo venduto, ma il baracchino non ne vuole nessuno, Natali. Non c'è mercato. In molte città d'Italia ormai è in molte città d'Italia è deserta la frequenza, deserta. C'è gente che ha preso un baracchinetto, non sente mai nessuno, mai, nemmeno i camionisti ormai. E infatti tante cose per piazzare antenna da te, bisticci, malumori, poi per cosa poi, ma e vabbè, io quando potrò entrerò. Mi ero scaldato un piatto di pasta e fagioli, si sta anche raffreddando Natali. Io non so se adesso chiudere e mangiare. intanto vedo che Marco Claudio ha risposto a WhatsApp, deve essere impegnato nella casa lì, nella seconda casa lì, sai, lavori da fare, spese, poi un casino è qua. Beh, sono contento che ti abbiano rinnovato la patente, però è una grande cosa quella. Poi dopo risolti i problemi di vista, almeno questo problemino, mi metterò gli occhiali appena posso e così finalmente ci tornerò a vedere bene, dai. E poi sempre soldi, sai, anche gli occhiali costano, minimo ti partono almeno 300 euro per gli occhiali, bene andato, mi. Ah, io ero astigmatico all'occhio sinistro. Aspetta, mi sta andando di traverso tutto. Allora, io ero astigmatico all'occhio sinistro, avevo un quarto di grado, no? Questo anni fa. Però adesso, non so, a parte il difetto della retina o del nervo ottico, non lo so, sicuramente è aumentato comunque. A meno che non me lo risolvano loro anche il problema della vista con laser, boh, non lo so. Non si sa niente, tutto ancora da decidere, boh. E vabbè. Perché sono tutti e due gli occhi, no? Quello destro, l'occhio destro ha la parte destra che non la vedo, è oscurata, capito? Proprio la metà esatta a destra non si vede più. Riesco a vedere le differenze di luce, no? Però anche lì poi i medici non dicono niente, dicono sì, c'è questo, ma usano termini tecnici. E vabbè, dai, mi metto nelle loro mani e vediamo cosa ne esce. Bene, c'era un caldo, ci sono andato di nuovo in Viale Umberto dal medico perché devo firmare il consenso alla... mi ha fatto un questionario, no? Alla risonanza magnetica, ha chiesto se avevo pacemaker, se avevo, non so, protesi metalliche, se avevo fatto il saldatore, sai, perché possono avere sotto pelle delle palline metalliche, non sai come succede. Quelle domande mi ha fatto, se sono mai stato operato alla testa o al collo, gli ho detto no. Se soffro di claustrofobia, perché sai, lì ti infilano in quel tubo e c'è gente che è da di matto perché è claustrofobica. E va bene. Quindi ho firmato e poi si vedrà. Bene, bene. Dai Natale, io mangio questo piatto di pasta e fagioli, poi non lo so, magari ci sentiremo in questi giorni. A Pasqua cosa fai? Pasqua, Pasquetta. Noi ce ne siamo a casa che siamo senza soldi. Fino al 3 non abbiamo nulla proprio. Ci fa credito, prendiamo la roba a credito al negozio di alimentari qua a fianco, no? Però se volessimo mettere benzina, andare... Oh, ce n'è benzina, non è che già possiamo farci un giretto, ma giusto un giretto così a guardare chi c'è in Pinetta, a Golso Vigliare. Se vive in compattato fino al treno si canta messa, il prete se non gli dai soldi non canta. E allora? Mamma mia, infatti, poi anche trasporti, no? Meno male che mia zia sia un po' sacrificata, ha pagato il bed and breakfast, Oh, bello, comodo, pulito, gentilissimi. Però ripeto, non ho potuto far colazione perché dovevo andare a digiuno a fare gli esami, capito? Anche esami del sangue mi hanno fatto. Quindi dovevo andare a digiuno. Quindi ho fatto solo il bed senza breakfast. €600 ho pagato solo per la patente e più €7 quando è venuta la cucina a consegnare. 4 giorni ci danno la patente. Eia, ma perché €100? Aspetta, io non me lo ricordo, io un rinnovo l'ho già fatto, ma addirittura €100 si spendono. In cosa consiste il rinnovo? Ricordamelo che già non me lo ricordo più, io lo devo fare nel 2022. E allora lo facciamo assieme. Io sono andato a scuola vita, €87 pagato. Più le fotografie, ma più un po'. E il più €7 ho pagato alla cucina quando me l'ha portato. E le hanno lasciate tutte, fino a 65 anni, se le ho poi me le scavo. Ah, ma tu avevi fatto le guide a scuola? Boh, non lo so perché. Io mi ricordo di aver fatto un esame della vista, di aver pagato forse qualche bollo, qualche... Non mi ricordo nei esami di guida, solo la vista avevo fatto. Però tu sei più grande, tu hai avuto problemi di salute di quel tipo, del cuore. Forse tu hai, mi pare di ricordare che hai più patenti, io solo l'A e la B. Quindi forse per quello te l'hanno fatto, hai pagato di più anche. E hai fatto più esami. Ho fatto la vista e senti di reazione. Quando si c'è la patente superiore si fanno anche più reazioni. Ah, per quello. E poi io in realtà ce l'avevo dal 90 la B, poi nel 92 ho preso la patente A per la moto e la vecchia patente, cioè vecchia, la patente del 90 me l'hanno presa, cioè l'ho dovuta restituire, mi hanno dato nel 92 stranamente una nuova patente con A e B. Non so perché questa manovra, bastava solo aggiornarla. Quindi 92, in che anno l'avevo rinnovata? Cos'è, 10 anni, no? No, 92, 2002, mi pare 2012 l'abbia rinnovata. O può essere, ma cazzo, non me lo ricordo, Natalia. 10 anni dura la vita. Invece la mia dura 5 anni. Io sto da là fino alla fine. No, Natalia, io mi pare che l'ho rinnovata dopo 20 anni. Mi pare dal 92 al 2012. Forse perché sono il più giovane d'età. Oh, o sto sbagliando io. Io so solo che la devo rinnovare nel 2022. Forse sto sbagliando io, hai ragione. Stai sbagliando tu, con 10 anni la devo rinnovare. Se no hai durato 10 anni con la patente di vita. No, no, no. Già c'è scritto il rinnovo. Già sono ligio per queste cose. Bene, Natalia, dai, io mi mangio questo, poi c'è un po' di cavoli e insalata. Cercherò di entrare anche domani, tanto dove cazzo andiamo noi? Capito, non possiamo andarci nemmeno a mangiare fuori, bisogna aspettare il 3, porca miseria. Avevo prestato anche soldi a mamma, €150, e nel frattempo che ero senza soldi mi sono preso un bel po' di roba bella su eBay. Ogni volta così, ogni volta che presto soldi a mamma mi perdo roba bella, di quelle cose che piacciono a me. E non mi va questa storia. Vabbè dai, non ne parliamo. Natalia, mangio. Guardate un po' la TV. Che per oggi non credo che rientrerò, dai. Dai, ci sentiamo. Saluta la signora. Meno male che almeno sia entrato. Io ho provato a fare beep più volte, oppure a parlare, a mandare musica. Alla fine già sei entrato, dai. Vuol dire che sei vivo, è vegeto. Vabbè, ma allora, mangia, io sto... Questo è Capoli, Capoli in salata, poi Valenciano, ma tu dove vai? Tutto buono, tutto buono. Oh, Natali, c'è una fame in giro, c'è una fame, hanno rubato, l'avrei letto là sulla nuova, hanno rubato la, il pasto pasquale alla mensa dei poveri. Cazzo, la guerra tra poveri si fanno, cazzo, gli hanno rubato la, il pasto di Pasqua. Cazzo, ma allucinatemi. E non è dove va mia moglie, alle distanziane, guardi, di quello che è campato. Quello è la sede di Sant'Antonio. E c'è l'altro per consegnare questi pacchi qua. A rubarmi i pacchi è pure. Non c'è rispetto più per nulla, guarda. Sì, ma probabilmente chi l'ha rubato il pasto sarà ancora più povero lo stesso, perché deve essere gente disperata, mi ho detto, c'è una fame in giro, mamma mia, adesso ha cambiato questo governo, ma non cambierà niente, poveri restano poveri, ricchi, sempre più ricchi, va bene Natali, dai, buona serata, dai, ci sentiamo poi, anche domani, ciao ciao. Ciao, domani.